tour the moving station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello there, this is Fergal Cavanaugh on Tam Tam Europe on Radio Tour the Moving Station, bringing you the best news e altre cose dalla nostra redazione di Londra. The Fun Loving Criminals sono attivissimi al momento. Hanno già pronto 18 nuove canzoni, tra cui 13 o 15 andranno a finire nel loro terzo album, sul quale, quale stanno attualmente lavorando e che dovrebbe uscire all'inizio del 2001. Ma prima, a luglio, verrà pubblicato un video della band intitolato Mayo Homicide 2000, che raccoglie 8 diversi videoclip e un cortometraggio girato alla Hawaii l'anno scorso. Arriva la notizia che hanno anche prodotto 4 brani scritto per Reggie Cray, il gangster inglese famoso per il Great Train Robbery dagli anni 60 e che si trova ancora in prigione. Questi saranno pubblicati in un album di Cray, sul quale gli altri ospiti comprendono Joe Strummer, Ian McCulloch e Tricky. E se ci volete segnalare gruppi da ascoltare, chiamateci allo 081 790 1411 o inviate un messaggio allo 0348 24 38 888. Da Tam Tam Europe e da Fergal Cavanaugh vi lasciamo con i Fun Loving Criminals and Couldn't Get It Right. Ciao, alla prossima! Tam Tam Europe. Una voce inconfondibile, Fun Loving Criminals, grazie a Fergal Cavanaugh e alla redazione londinese di Radio Tour The Moving Station. Ma insomma ragazzi, ma siamo o non siamo? Siamo o non siamo una radio in movimento, in perenne movimento, sempre attenti alle nuove mode, alle tendenze, e parliamo anche in questo caso da quella che è la capitale più bella, più trendy d'Europa e più viva d'Europa, cioè Londra, attenti alle tendenze musicali e non. Grazie a Fergal. Radio Tour The Moving Station. Station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello, and this is Fergal Kavanagh with Tam Tam Europe, la vostra pillola di rock e altro preparate della nostra redazione a Londra. E con l'uscita del nuovo album La Vida Che Vendrà arriva una notizia su Meg, la voce femminile di 99 Fossi. È giunta voce che si trovava al matrimonio di una coppia di amici a Napoli e naturalmente c'era musica dal vivo. C'era anche il DJ napoletano The Dr. Everett Scott e Meg si è esibita come percussionista durante l'esecuzione di Tamoriate Nera ed altri brani popolari, prima di prendere il microfono per cantare il vecchio rock and roll hit Let's Twist Again e vari pezzi dai Beatles. E viva gli sposi! Sul Tam Tam Europe vogliamo augurare il meglio per sempre a Maurizio e Simona. Se mi volete mandare un'email, segnate questo indirizzo fergal@radiotour.it. Vi lasciamo con i 99 Fossi che suoneranno a Napoli il 24 giugno e con la partecipazione di Speaker Cenzu, il 99 Fossi e L'Anguila. Do Tam Tam Europe, nostra redazione di Londra, e da Fergal Kavanagh, ciao, alla prossima! Tam Tam Europe. Precoce che mi hai preparato, il mercato è già pronto, varelle sul fuoco, mai so come anguille, perciò cambio gioco e mando a fanculo, tutto mercato di gente per bene, fatto di video e canzoni per bene, ma buone per la tua realtà virtuale, la radio e la tele, ne sono pieni di facce serene, rassicuranti che van bene per tutti quanti, mamme, bambini, ladri, assassini, gente per bene, che si offende se dico bene, e poi votano a Berlusconi, Prodi di Mirale, Mappini, Mose, porto pure a Bonine, papa, mocca, attiva e morte, tutto quello che c'ho da dire, a torto ragione, il fatto è che non so per bene, la mia faccia non è serena, incompatibile col sistema che ci vuole tutti quanti allineati e sorridenti a lavorare nella grande catena di montaggio sociale nella quale io lavoro da anni e sono tanti anni che voglio sabotare, sabotare, sovvertire, questo il mio lavoro e questo è quello che so fare, sabotare, sovvertire, questo è il mio lavoro ma tu non lo puoi capire, sabotare, sovvertire, sabotare. Non mi avrete promette miracoli, parla di money money, soltanto money money, no, non puoi fidarti di chi, parla solo dei soldi, al tuo bene non pensa ma a quello dell'azienda, sì, no, no, tu non credere a chi, parla di marketing, quando parla dei sogni e delle tue passioni, no, le strategie da manuale, su di me non le puoi applicare, quante volte lo devo spiegare, tu usciterai a precisare che dalle folle mi farai clamare, VIP potrò diventare, tutti al circo a scenografare, con la tigre di domatore, ma che cosa ci posso fare se non mi lascia mai stare, sì lo so che se so sentire tanti soldi mi farai fare, sarà qui le cose, no, no, non è un serpente, né non strano pesce, modo di vivere, scivolazzo un buon pesce sparisce, chi sei capitone a storia non patisce, mai, mai, mai, mai, mai, mai, non mi avrete mai. Fidarti di chi no, mai. Non le sa su chi sei, vuoi vedere solo gli zeri, i numeri su Airplay, non fidarti di chi vuol farti fare ciò che non vuoi, ma pensa solo a quello che senti, denti stretti per noi, che penso che questa situazione attuale non ti fa capire bene dove si va, ma la mia necessità vitale è far capire che così non va qua, vedi bene adesso chi mette un veto sull'espressione, che ha il potere decisionale, vale il veto della canzone, oggi so di avere un valore, un fuoco brucia per loro, gioco la merdina e dal sotto solo so che viene da cuore. Nasce quello che ti sceglie, la musica non capisce, preferisce tutta la merda che entra dentro le soglie. Una guida cos'è? Pensi se non fai re, scivola sulle basi, frasi che colpiscono te. Pensi che puoi fermare questo quando metto estro in un testo, chi mi ascolta capisce il senso, non avrete mai mezzo. Come volete, come volete, come volete, come volete, come volete, come volete, come volete, come volete, come volete, come volete, come volete, come volete, come volete, come volete, come volete, come volete, come volete, come volete, come volete, come volete, come volete, come volete, come volete, come volete, come volete, come volete, come volete, come volete, come volete, come volete, come volete, come volete, come volete, come volete, come volete, come volete, come volete, come volete, come volete, come volete, come volete, come volete, su Radio Tour, grazie a Fergal, la nostra redazione di Londra che torna domani pomeriggio intorno alle 17:10. Radio Tour, the moving station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh and this is Tam Tam Europe, your daily dose of rock broadcast three times a day, keeping you up to date with what's going on in the world of rock. E non solo. La tecnologia e la natura possono essere uniti. Un gruppo di ragazzotti inglesi hanno vinto una scommessa realizzando un server per il computer alimentato dalle patate. La sfida è nata in un pub tra una pinta di birra e l'altro ed è stato vinto collegando un vecchio PC a 12 patate e sfruttando le proprietà elettrolitiche delle stesse tuberi. Il primo server a patate del mondo non è in grado di gestire troppi utenti se si collegano al sito contemporaneamente e c'è necessità di ricambio delle batterie vegetali ogni due giorni. Questo è tutto per ora. Se mi volete mandare un'email, segnate questo indirizzo: fergal@radiotour.it. Da Tam Tam Europe, dalla nostra redazione di Londra e da Fergal Kavanagh è tutto. Vi lascio con i Smash Mouth e All Star. Alla prossima. Tam Tam Europe. Somebody once told me the world is gonna roll. Me, I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media man beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. All that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh and you're listening to Tam Tam Europe. Questo pillole che vanno in onda tre volte al giorno, preparate dalla nostra redazione di Londra nel cuore dell'Europa. Polemiche in casa di Bruce Springsteen. Lo storico cantautore americano ha appena completato 10 giorni di seguito al Madison Square Garden di New York e anche se era sold out, mancava la polizia newyorkese. Il presidente del New York City Police Benevolent Association ha chiesto a tutti i soci di boicottare il concerti, visto che Springsteen suona una pezza molto polemica nei confronti della polizia. Si intitola American Skin e parla di un episodio avvenuto qualche mese fa, quando la polizia sparò 41 colpi ammazzando un uomo che stava tirando fuori il portafoglio. I testi dicono: questo è il tuo portafoglio, questa è la tua vita, puoi essere ammazzato soltanto per vivere nella tua pelle americana. I fan dicono che questo è uno dei brani più potenti di Springsteen negli ultimi 15 anni, con la rabbia e la passione dei suoi primi pezzi. Allora per adesso è tutto, da Tam Tam Europe, dalla nostra news desk a Londra e da Fergal Kavanagh vi lasciamo con un brano per Bruce Springsteen, tornato alla protesta. Ascoltiamo Sono Come Sono dai Blue Vertigo. Alla prossima! Tam Tam Europe. Cosa in mente. Tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh e voi state ascoltando Tam Tam Europe, pelle di rock e altro che vanno in onda tre volte al giorno. Si sente spesso parlare di celebrity auctions, cioè asta di celebrità, dove si possono trovare cimeli di tutti gli artisti preferiti ad un prezzo a volte esorbitante. Arriva la notizia che la piscina nel quale Brian Jones dai Rolling Stones annegò nel 1969 sarà venduto mattonella per mattonella. I soci dei fan club di Jones, scomparso in circostanze misteriose all'età di 27 anni, sono stati informati dai proprietari attuali del tenuto del 600 nel Sussex che intendono ristrutturare la piscina quest'estate e perciò hanno deciso di venderla pezzo per pezzo. Vi ricordo il mio indirizzo email per contattarmi, fergal@radiotour.it. Da Tam Tam Europe, from Fergal Kavanagh on our news desk in London, vi lascio con un pezzo per questa notizia da brivido. Questi sono i Coldplay e Shiver. Ciao, alla prossima. Tam Tam Europe. See straight through me, don't you? you, but you never even see me as you. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello there, this is Fergal Cavanaugh on TamTam Europe on Radio 2 The Moving Station, bringing you the best news e altre cose dalla nostra redazione di Londra. Dall'America arriva la notizia di una bella iniziativa che interesserebbe tutti quelli che hanno sofferto la perdita di un bagaglio in viaggio. Una linea aerea, Northwest Airlines, offrirà sconti ai passeggeri nel caso dovessero verificarsi ritardi nella consegna dei loro bagagli. Finora è l'unica grande compagnia aerea ad aver preso questa iniziativa e lo sconto sarà proporzionale al valore del bagaglio e parte da un minimo di $25. Speriamo che arrivi presto questa iniziativa in Europa. Se ci volete segnalare gruppi di ascoltare, chiamateci allo 081 790 1411 o inviate un messaggio allo 0348 24 38 888. Da TamTam Europe e da Fergal Cavanaugh vi lascio con Daniele Groff e l'America. Ciao, alla prossima. We'll be right back. singolo di Daniele Groff su Radio Tour The Movie Station, che aveva ascoltato grazie alla proposta di Fergal. Radio Tour The Movie Station present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh and you're listening to Tam Tam Europe. Queste pillole che vanno in onda 3 volte al giorno sono preparate dalla nostra redazione di Londra nel cuore dell'Europa. Col titolo Fat Boy Makes Zoe a Fat Girl arriva la notizia che la famiglia Slim aspetta un bambino a dicembre. Da quando si sono sposati in agosto dell'anno scorso, Norman Cook e Zoe Ball hanno sempre dichiarato di voler mettere su famiglia e perciò a marzo Zoe ha lasciato il suo lavoro come speaker su BBC Radio 1 e la coppia è andata in vacanza a Venezia. Quindi sembra che questo bambino avrà un po' di influenza italiano. E auguri a loro. Per adesso è tutto da Tam Tam Europe, nostra news desk a Londra. E da Fergal Kavanagh vi lascio con The Rockefeller Skank di Fatboy Slim, che pubblicherà un nuovo disco prossimamente, prima della nascita del figlio. Ciao, alla prossima. Tam Tam Europe. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Check it out now. Funk soul brother, right about now. Funk soul brother, check it out now. Funk soul brother, right about now. Funk soul brother, right about now. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh and you're listening to Tam Tam Europe, per The Rock messo in onda 3 volte al giorno on Radio Tour The Moving Station. Abbiamo parlato più volte del nuovo film di Björk qua su Tam Tam Europe, perciò ci è fatto molto piacere sentire che il regista Lars von Trier ha conquistato la Palma d'Oro nel Festival Internazionale del Cinema di Cannes con un premio speciale per Björk, che ha il potere di trasformare il mondo con la sola forza della voce. voce. Il film si intitola Dancer in the Dark e verrà distribuito in Italia col titolo Il potere del canto. Vi abbiamo già raccontato dei problemi sul set tra il regista e la cantante, e quanto affermava Van Trier in una press conference, diceva: Björk non è un'attrice, è stata una sorpresa per me perché sembra molto professionale, ma non le è affatto. È come stare con una persona che sta morendo. Nonostante questo, è dichiarato a Cannes: although she won't believe me, tell her I love her. Aspettiamo l'uscita di questo film e anche il soundtrack composto e eseguito dallo stesso Björk. Vi ricordiamo il nostro website www.radiotour.it. From Tam Tam Europe, our news desk in London, and from Fergal Kavanagh, vi lascio con Björk e Alarm Call. Alla prossima. Tam Tam Europe. Questo disco ci mette proprio l'ansia. Yox, Radio Tour di Moving Station 22:20, grazie a Fergal, alla nostra redazione. Radio Tour, the Moving Station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh bringing you the best news in rock, and non solo sul Tam Tam Europe. Tre pelle al giorno preparate dalla nostra redazione di Londra nel cuore dell'Europa. E gli NXS hanno fatto un concerto a sorpresa al Mercury Lounge di Melbourne a maggio. Come abbiamo già segnalato sul Tam Tam Europe, loro stanno suonando Standards nel Tim Rice Spectacular. Però siccome il primo spettacolo è stato annullato, hanno deciso di regalare un concerto rock ai fans. Così con l'ex cantante di Noiseworks, John Stevens, al microfono, hanno suonato 22 dei loro vecchi successi, originalmente scritti con lo scomparso Michael Hutchence, compreso brani dall'ultimo album Elegantly Wasted, che non avevano mai suonato dal vivo. Anche se gli NXS non hanno nessuna intenzione di fare un tour, questo non è stato la prima volta che si sono esibiti dalla tragica fine dei Hutchence. Hanno suonato ad un concerto di beneficenza con Jimmy Barnes alla voce e all'apertura dello Stadio Olimpico di Sydney con Terence Trent D'Arby. Se ci volete segnare gruppi di ascoltare, chiamateci al 081 790 1411 o inviate un messaggio allo 0348 24 38 888. Vi lasciamo con gli NXS, con Michael Hutchence e Baby Don't Cry. Da Tam Tam Europe e da Fergal Kavanagh, ciao, alla prossima. Tam Tam Europe. Fergal. Non ne pensa ai 100 anni fa, 100 ne pensa ai 1800 anni fa. Con Radio Tour The Movement Station, con Tanta Europe, un'altra pillola che troveremo domani pomeriggio intorno alle 17.10. Per adesso ci prendiamo una minuscola pausa e torniamo con Artful Dodge. Tour, the moving station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh. Voi state ascoltando Tam Tam Europe, la di rock e altro che vanno in onda tre volte al giorno. I tempi sono migliorati per i Savage Garden da quando hanno registrato il loro primo album 3 anni fa. Quello è stato registrato in condizioni di abject squalor, cioè misero squalore, mentre il loro ultimo album intitolato Affirmation l'hanno completato a San Francisco nel studio di lusso di Celine Dion. Il cantante Darren Hayes racconta che l'album è autobiografico, poiché parla del fine del suo matrimonio. Dice: forse lo ripiangerò un giorno, ma i miei dischi preferiti sono sempre stati diretti e personali. A voi potete dare la parola adesso su Tam Tam Europe, perché vi la proponiamo subito. Vi ricordo il mio indirizzo email per segnalarci gruppo e brani da ascoltare: fergal@radiotour.it. Do Tam Tam Europe, i Savage Garden e The Animal Song. Allora, alla prossima. Tam Tam Europe. Garden su Radio Tour, grazie tanto a Miro per Fergal. Radio Tour in tour, tra poco torna con Bramble Beacon, Crime of Passion. SPOT.